resti il ciao senza chavels. Musa mai di ateggia con musi il grappe di il furnel. M'installar pudessa sil cusin regina con il temperi. Ma iau ves la sombriva da mesa giancia l'inge scotch ne sa passar. Iau ves la sombriva da mesa giancia l'inge scotch ne sa passar. Scolde sen al firmament svanir girond girond svanir. Quinta mai dia stessa sort, desavis d'amur da drece tort. M'installar pudessa entes doba il geo, da paia dieu a paia dieu. Ma iau es la sombriva da mesa gencia, l'inge scotch ne sa passar. Ma iau es la sombriva da mesa gencia, l'inge scotch ne sa passar. Scolde sen al firmament svanir girond, girond, girond. Dai a mai in un retta bon cui già padre appantun reparar pudesse sciarpa e scussar a tesami in ferre. Grazie a Fitchpil Minestrin, esce all'atta teslanzia d'alien, m'installar pudessa lunghe lat, in tele sguard d'eternità. Ma iau ves la sombriva da mesa giancia, l'inge scotch ne sa passar. Iau ves la sombriva da mesa giancia, l'inge scotch ne sa passar. Scolde sen al firmament svanir girond, girond.